Ti vesti sempre di nero e non rispondi al telefono. Memoria piena di foto del tuo animale domestico. Non sai nemmeno più ridere. Milano ti rende fragile. Ti vedo andare all'università mentre passi in bicicletta e mi chiedo se ti godi qualche festa senza crederti in un film. Sei triste a carnevale, sorridere mainstream. Vorresti un altro uomo, un po' come James Dean, ma non è da te. E va bene Baudelaire, ma perché non ritorni da me? Storia dell'arte, lavori per sopravvivere, ma poi ti metti da parte creando solo un'immagine in bianco e nero, ma non sei tu. Ma dove sono i tuoi occhi blu? Sei triste a carnevale, sorridere mainstream. Vorresti un altro uomo, un po' come James Dean, ma non è da te. E va bene Baudelaire, ma perché non ritorni? Lo sai che amarmi non è così commerciale come credi. Quante foto su queste pareti, lo sai che trovarsi non è così complicato come credi. Cosa sono io se non mi vedi? Sei triste a carnevale, sorridere mainstream. Vorresti un altro uomo che sembri un po' James Dean, ma non è da te. Sai che odio un po'.